Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. 18 dicembre 1970. Caro Michele, ho visto la ragazza di Via dei Prefetti, Mara. Che nome da fumetto. Era meglio Maria. Con una I in più tutto poteva essere diverso. Le ho portato un po' di soldi, me li son fatti dare dalla mamma. Però Osvaldo dice che più che darle dei soldi, bisognerebbe aiutarla a trovare una sistemazione, cosa non semplice perché non è buona di far niente. Osvaldo l'aveva messa dalla signora Peroni. Sembra che esista anche una vecchia madre della signora Peroni, ottuagenaria ma vispa, e abitano a Montesacro. Mara doveva aiutare un po' in casa, la tenevano col bambino e le davano qualcosa al mese, ma invece per poco non gli ha mandato a fuoco la casa e hanno dovuto chiamare i pompieri. Così almeno mi è sembrato di capire da una lunga storia pasticciata che mi ha raccontato lei. Però lì da mangiare c'era pochissimo, almeno così lei dice. Un pezzetto di baccalà a pranzo e un altro pezzetto di baccalà a cena, riscaldato con le cipolle. Questo baccalà lei non lo digeriva e andava avanti a forza di Alka-Seltzer. In più si svegliava la notte con una fame nera e andava brancolando per la casa in cerca di formaggio. Così le è sparito il latte. Osvaldo però dice che questa ragazza racconta bugie. Il bambino è carino, ma non è tuo. Ha una grossa bocca e dei lunghi ciuffi neri. È vero che questi ciuffi neri potrebbe averli presi da nostro padre. Adesso lei col bambino è di nuovo in Via dei Prefetti. Ray, quel ragazzo che tu mi hai mandato, è rimasto da me una settimana, ma litigava con Oreste. Una volta gli ha detto revisionista. Su questa parola Oreste si è così infuriato che gli ha dato un pugno. Gli ha fatto sanguinare la bocca. Io avevo paura che gli avesse rotto i denti, ma era solo il labbro un po' spaccato. Siamo scesi in farmacia, io, Sonia e Ray. Oreste è rimasto su. Era stravolto. Ray non era stravolto, però quel labbro gli sanguinava tanto che gli si è sporcata di sangue tutta la giacca a vento. In farmacia hanno detto che non era niente e gli hanno messo un ansaplasto. Il giorno dopo ho telefonato a Osvaldo e ora Ray soggiorna nel tuo scantinato. Sonia gli porta da mangiare e giornali a fumetti da leggere perché lui vuole imparare come si fanno i fumetti. Ha un amico che fa i fumetti e gli ha promesso di farlo incontrare con il direttore di uno di quei giornali. Perciò sta provando e riprovando a disegnare donne con seni immensi e con occhi immensi. Ha visto i tuoi gufi e ha disegnato anche qualche gufo svolazzante intorno a quei seni. La mamma si è cacciata in testa che Oreste l'avesse preso a pugni per gelosia. Ma Oreste non avrebbe avuto ragione di essere geloso, perché fra me e questo Ray regna la più assoluta indifferenza. Io non lo trovo simpatico, nemmeno antipatico. Lo trovo una meba. Secondo Oreste ha delle idee fasciste, ma Oreste vede fascisti e spie dappertutto. D'altronde ripeto che fra Ray e me non c'è niente, e lui va a letto con Sonia nel tuo scantinato, nel tuo letto e sotto le belle coperte della mamma. Gliel'ho detto alla mamma e mi ha detto di portare via quelle coperte e sostituirle con altre meno belle. Non credo che lo farò perché mi sembra un gesto antipatico. Alla mamma a volte vengono delle idee antipatiche. Le vengono però di solito nei riguardi di persone che non ha mai visto. Se lo vedesse questo Ray non lo direbbe se direbbe che dopo brutte coperte. Io ho lavato la giacca a vento di Ray pensando che si potesse lavare in casa. Ma ho sbagliato perché quando è stata asciutta era secca e rigida come un pezzo di baccalà. Domenica sono stata a mangiare dalla mamma. Oreste non è venuto perché aveva un convegno di sindacalisti. Sono stata là con la bambina. C'era Osvaldo con la sua bambina. La mamma dei conigli. Le bambine si sono divertite con questi conigli. Non so come abbiano fatto a divertirsi perché sono dei conigli non divertenti e molto addormentati. Le gemelle li hanno tirati fuori dalle gabbie acchiappandoli per le orecchie. Li hanno adagiati sull'erba e non scappavano nemmeno. Sono conigli che lasciano giù molti peli. Le gemelle passano le ore a levarsi quei peli dalle giacche. Era una giornata di bellissimo sole. La mamma però aveva l'aria depressa. Credo che la morte di nostro padre l'abbia buttata giù. Credo che si sia messa a ripensare agli anni in cui vivevano insieme. Ogni momento le viene da piangere. Si alza e va in un'altra stanza. Ha messo nel soggiorno quel quadro del papà dove lei è alla finestra, nella casa di Pieve di Cadore. Tu non ti ricordi perché eri piccolo, ma io mi ricordo tutto. È stata un'estate bruttissima. Loro non litigavano più, ma c'era sospesa nell'aria la sensazione che stava per succedere qualcosa. Certe volte di notte sentivo la mamma piangere. Io non sapevo chi di loro due aveva torto o ragione. Non me lo chiedevo nemmeno. Sapevo solo che dalla stanza dove loro stavano venivano delle onde di angoscia che si propagavano per tutta la casa. Non un angolo della casa rimaneva salvo. L'angoscia era dappertutto. Ci eravamo divertiti in quella casa per tante estati. Era una bella casa. C'erano tanti posti per giocare. C'era una legnaia, tanti ripostigli dove nascondersi. C'erano dei tacchini in un cortile. Tu non ti ricordi. Poi è arrivata Cecilia e siamo andati con lei a Chianciano. Lì è venuto nostro padre dopo qualche settimana e ci ha detto che loro si separavano. Ci ha detto che tu saresti rimasto con lui, noi bambine con la mamma. Non c'erano spiegazioni. Avevano deciso così. È rimasto a Chianciano 2 o 3 giorni. Stava seduto nella hall dell'albergo, fumava, ordinava dei martini. Quando Cecilia gli diceva qualcosa, lui le diceva di stare zitta. Forse la mamma è ancora innamorata di Filippo, non lo so. La sua relazione con Filippo è durata tanti anni e lei si aspettava sempre che venisse a stare con lei. E invece lui si è sposato con una più giovane di me. Non aveva il coraggio di dire alla mamma che si sposava e ha voluto che ci fossi anch'io. Filippo non è coraggioso. Comunque per me quella è stata una mattina orrenda. Era il maggio scorso. Mi ricordo che era maggio perché quel rosaio che c'era sotto le nostre finestre in via dei Villini era pieno di rose. In pratica ora la mamma è molto sola. Le gemelle non le danno retta. Tu non ci sei. Viola e io facciamo i fatti nostri. È lì con Matilde. Matilde le dà sui nervi. Però è qualcosa. Una presenza nella casa. Una voce nella casa. Un passo in quelle stanze dove non cammina mai nessuno. Chissà perché la mamma si è comprata quella casa enorme. Adesso si deve essere pentita di averla presa. Si deve essere anche pentita di aver fatto venire Matilde. Eppure sa che la solitudine completa per lei sarebbe peggio. Però Matilde le dà sui nervi. Matilde la chiama cocca mia e le chiede ogni momento come stai, carezzandole il mento e fissandola negli occhi. La mattina viene a fare lo yoga in costume da bagno nella sua camera perché dice che è la sola camera veramente calda in tutta la casa. La mamma non è buona di dirle di andar via. Alla mamma ora le è venuta un'indole mite. Le tocca anche stare a sentire Polenta e Veleno, il romanzo di Matilde, che adesso Matilde ha ripescato in un suo baule e vuole correggere perché Osvaldo le ha detto incautamente che Ada è molto legata con un editore. È un certo editore Colarosa, un piccolo editore da 4 soldi. Credo che sia l'amico di Ada. Matilde si è buttata sull'idea di questo editore. Legge Polenta e Veleno ad alta voce alla mamma e Osvaldo tutte le sere. Osvaldo adesso viene là quasi tutte le sere. Lui e la mamma sono diventati abbastanza amici. Nessuna implicazione sessuale nella loro amicizia, naturalmente. Del resto Osvaldo non credo che si interessi alle donne. Ho l'idea che sia un pederasta represso. Ho anche l'idea che sia oscuramente e inconsciamente innamorato di te. Non so come pensi tu, ma io credo così. Mi piacerebbe rivederti. Io sto bene. Flora va all'asilo, mangia all'asilo e torna alle 4. Va a prenderla Sonia perché io sto in ufficio fino alle 7. Il mio lavoro è sempre più rognoso e più scemo. Devo in questo momento tradurre un lungo articolo sull'acqua pesante. Arrivo a casa, devo fare la spesa e la cena e stirare le camicie di Oreste perché lui non vuole le camicie che non si stirano. Dopo lui se ne va al giornale e io mi addormento davanti alla televisione. Ti abbraccio, Angelica. Thank you. La trovo infinitamente cretina, disse Mara. Ti sbagli, disse Osvaldo. Infinitamente, disse Mara. Invece a qualche momento di una rara acutezza e penetrazione. È limitata, questo sì. Ma comunque è mia moglie e ti prego di smetterla di darle della cretina. Sono qui da un quarto d'ora e non hai detto altro. Siete divisi. Non è più tua moglie. Lo stesso mi secca quando la gente ne dice male davanti a me. Capita spesso? Cosa ti importa? Non la trovo né bella né elegante. Invece è bella e qualche volta è molto elegante. Ieri non era elegante. L'altra volta nemmeno. Aveva sempre quella pelliccia. È il lupo americano. Di questi lupi americani sono piene le strade. Ti escono anche fuori dagli occhi. Non ho visto com'è fatta di corpo perché è rimasta sempre con la pelliccia. Le gambe le ha sottili, ma le ginocchia sono grosse. Ha quegli occhiali grandi con la montatura di tartaruga. Perché non prende quegli occhialini leggeri con la montatura invisibile? Ha un po' di baffi. Sono ossigenati, ma ci sono. Camminava qui con le mani in tasca. Aveva l'aria di studiarci, me, il bambino, l'appartamento. Ieri le hai chiesto se lo trovava cresciuto il bambino. Ha detto che era carino. Ma come se dicesse carino a un lume. Non ha gentilezza. Ada, in fondo, è timida, disse Osvaldo. Per te sono tutti timidi. Ma poi mi avevi detto che se veniva qui mi portava subito degli elettricisti, dei muratori. Invece non mi ha portato nessuno. Non ha mosso uno spillo. Tutto quello che ha saputo dire è che qui c'è odore di cesso. Questo lo sapevo anche da me. Non ha detto odore di cesso, ha detto odore di cortile o qualcosa del genere. Io contro l'odore di questa casa non posso farci niente. Ci sono delle case che puzzano e questa puzza. Fra varichine e acido muriatico non sai le somme che ho speso. Grandi consigli per la casa lei non me ne ha dati. Mi ha detto solo di comprare uno scolapiatti da Upi. Che bella trovata. L'hai comprato? No, mi è mancato il tempo. Più di una settimana sono stata da quelle maledette peroni. Cattive non erano, anzi, erano abbastanza gentili. Ma mi hanno fatto andare via il latte con i loro pranzi di baccalà. Sono rivenuta qui e pioveva dal tetto. Ho chiamato un muratore. L'ho chiamato io, non tua moglie. Poi mi sono successe disgrazie varie. Ho paura che dovrò andarmene da questa casa. La mia amica, quella che me l'ha imprestata, è venuta un giorno con un giapponese, suo amico, e ha detto che qui vorrebbe fare una boutique di cose orientali. Ho detto che non mi sembra adatto questo appartamento, all'ultimo piano, senza ascensore e con l'odore di cesso. Il giapponese era abbastanza gentile, ha detto che nella boutique io avrei potuto fare la vendeuse. La mia amica ha detto che comunque, boutique o non boutique, questa casa lei la rivuole perché ha bisogno di soldi. Allora ci siamo litigate e ci siamo lasciate in freddo. Solo il giapponese, ancora gentile, mi ha detto che mi regalerà un kimono, perché gli avevo raccontato della mia casacca bruciata. Così però, se quella mi ha mandato via qui, non so dove andare. È vero che potrei sempre andare nel famoso scantinato. Michele per adesso non torna. Lo scantinato è di Ada, non so cosa vorrà farne Ada. Vorrà forse affittarlo. Dio, come siete attaccati ai soldi! Io non posso pagare nessun affitto. Forse in seguito. Quello scantinato è piuttosto buio e forse anche umido. Ma per me va bene. Sarebbe comodo perché tu sei al piano di sopra e potrei chiamarti la notte quando ho bisogno. Aspiro a non essere svegliato la notte, disse Osvaldo. Dicembre 1970. Caro Michele, è venuta a trovarmi tua sorella Angelica. Io non l'avevo mai vista. È simpatica e molto bella. Mi ha dato dei soldi. Sono 60.000 lire. Con 60.000 lire io non ci faccio niente. Però è stato un pensiero gentile. So che sei tu che hai detto di darmeli. Grazie. Ho detto a tua sorella che un giorno vorrei andare a trovare tua madre. Dice che tua madre in questo periodo è molto depressa, ma dopo, quando sarà meno depressa, io certo ci potrò andare. Angelica mi ha dato il tuo indirizzo, così ti posso fare le condoglianze per tuo padre. Ti mando anche gli auguri per Natale e Capodanno. Natale è veramente già passato. Il giorno di Natale ero sola e triste. Il bambino aveva il naso chiuso e piangeva. Ma poi verso sera è venuto un giapponese che conosco e mi ha portato un kimono. È un kimono nero con due grandi girasoli, uno dietro e uno davanti. Ti do la buona notizia che ho trovato un lavoro. Ho già incominciato. Il bambino lo porto la mattina da una signora che ne tiene altri 6 e vado a riprenderlo la sera. Pago 20.000 lire al mese. Questo lavoro me l'ha trovato la moglie di Osvaldo, Ada. Ha trovato lei anche la signora che tiene i bambini. Quest'Ada io la trovo una cretina, però devo dire che è stata molto gentile con me. Lavoro da un editore che si chiama Fabio Colarosa. È l'amico di Ada. Forse vanno a letto, non si sa. Osvaldo dice che forse vanno a letto già da 2 anni. Lui è basso, magro, con un naso grande, lungo e curvo. Sembra un pellicano. L'ufficio è in via Po. Io ho una grande stanza e sto sola. Colarosa ha un'altra grande stanza e sta solo. Sta seduto allo scrittoio e pensa. E quando pensa arriccia il naso e la bocca. Ogni tanto parla nel dittafono, chiudendo gli occhi e carezzandosi piano piano i capelli. Io devo battere a macchina le lettere e tutte le cose che lui ha detto nel dittafono. Certe volte nel dittafono lui dice dei suoi pensieri. Sono pensieri difficili e io il senso non lo capisco. Devo anche rispondere al telefono, ma non gli telefona mai nessuno, salvo ogni tanto Ada. In un'altra grande stanza ci sono 2 ragazzi che impaccano i libri e disegnano le copertine. Pubblicheremo anche il libro di tua zia Matilde. Si chiama Polenta e vino o qualcosa del genere. Hanno già pronta la copertina. C'è un sole e delle zolle di terra con infilata una zappa, perché è una storia di contadini. I 2 ragazzi dicono che questa copertina sembra il manifesto dei socialisti. I soldi per pubblicare questo libro li dà tua madre. Tanto valeva se me li dava a me questi soldi, che io ne ho bisogno. Prendo in questo posto 50.000 lire al mese. Con 50.000 lire al mese non ci faccio niente. Ma lui, con la rosa, ha detto che mi aumenterà. Ha detto che non gliene importa niente, se non so l'inglese. Osvaldo mi ha raccontato che per convincere Ada a raccomandarmi a questo suo amico con la rosa ci ha messo 2 giorni. Lei mi ha raccomandato, ma gli ha detto che sono una matta. Lui ha risposto che non ha niente contro i matti. La trovo una bellissima risposta. A mezzogiorno scendo al bar e mi prendo un cappuccino e un panino. L'altro giorno però lui, con la rosa, mi ha visto mentre stavo entrando nel bar e mi ha invitato al ristorante. È piuttosto silenzioso, ma non è di quei silenziosi che ti fanno stare male. Ti fa ogni tanto una cortissima domanda e ti ascolta arricciando il naso e la bocca. Mi sono divertita. Non so perché mi sono tanto divertita, visto che lui parlava così poco. Mi ha spiegato che di quei pensieri che dice nel dittafono vuole farne un libro. Gli ho chiesto se era bello il libro di tua zia Matilde e mi ha detto che era una grande porcata. Ma lui pubblicava per fare un piacere a Ada, che vuole fare un piacere a Osvaldo, che vuole fare un piacere a tua zia, eccetera, eccetera. D'altronde tutte le spese le paga tua madre. Il bambino ti rassomiglia. I capelli li ha neri e lisci, tu invece ricci e rossicci, ma i capelli dei bambini poi cambiano e ricrescono diversi. Gli occhi li ha color piombo, tu verdi, ma si sa che cambia anche il colore degli occhi nei bambini. Mi piacerebbe che il bambino fosse tuo, ma purtroppo non ne sono sicura. Però non devi credere che ti chiederò di fargli da padre quando ritorni. Sarei scema se te lo chiedessi. E anche sarei una carogna, visto che non sono sicura che suo padre sei tu. Date le circostanze, questo è un bambino senza padre, e qualche volta mi sembra una cosa tremenda, ma qualche volta sono abbastanza di buon umore e penso che va bene così. Io con te mi divertivo. Non so perché mi divertivo, ma ma non si capisce perché con qualcuno ci si annoia e con qualcun altro ci si diverte. Tu certe volte avevi la luna per traverso e non mi parlavi. Io parlavo e tu mi rispondevi solo con un verso nella gola, senza aprir bocca. Adesso, quando voglio ricordarmi di te, faccio quel verso nella gola e subito mi pare di vederti. La luna per traverso, tu con me ce l'avevi quasi sempre negli ultimi tempi. Forse trovavi che ti stavo troppo appiccicata. Io però non volevo niente, volevo solo la tua compagnia. Non ho mai pensato che mi dovevi sposare, se vuoi saperlo. E anzi, l'idea di sposarmi con te mi faceva ridere e anche venire dei brividi. È un'idea che se qualche volta l'ho avuta, l'ho buttata via di corsa. Mi hai fatto molta pena quella volta che avevamo appuntamento e sei arrivato di corsa, pallido pallido, e mi hai detto che avevi investito una monaca. Dopo, nello scantinato, mi hai detto che era morta. Stavi con la testa cacciata nel guanciale e io ti consolavo. Ma la mattina dopo non mi parlavi più. E quando ti carezzavo sui capelli facevi quel tuo verso nella gola e tiravi via la testa. Tu hai un gran brutto carattere. Ma non è per questo che non ti voglio sposare. Non ti voglio sposare perché quella volta là, e anche tante altre volte, mi hai fatto pena. E io vorrei sposarmi con un uomo che non mi facesse mai pena, perché già mi faccio tanta pena io. Vorrei sposarmi con un uomo che mi facesse invidia. Ti abbraccio e qualche volta ti scriverò. Mara.